Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il governo farà una manovra da 80 miliardi di euro per ovviare la crisi finanziaria, per sostenere il sistema Italia nel suo complesso. Dopo che personaggi molto rampanti, operanti senza ragionevoli controlli, hanno sconquassato il mondo. Ora, non dimenticando il contributo per l'Italia da parte degli italiani onesti, mi viene da pensare che gli italiani che pagano le tasse saranno sicuramente chiamati a concorrere per il risanamento, senza avere nessuna colpa per lo sconquasso creatosi. Mentre scrivo c'è un bel sole fuori e potrei anche pensare all'ottimismo. Se potessi dimenticare che il debito pubblico ci costringe ogni anno a trovare, per pagare gli interessi sul debito, 70 miliardi di euro e che gli evasori in tutta questa bella storia sono esentasse. Io non sono né ottimista né pessimista, sono realista. E spero di non sentire qualcuno che mi venga a dire che ha salvato i conti del mio paese, perché io sono già stato coinvolto in passato e lo sarò anche in futuro. E con me, tanti italiani onesti. Sergio. Direttore Fabi, CAI paga gli asset all'Italia dando una prima rata inferiore ai 300 milioni di euro, quindi meno di quanto all'Italia deve rimborsare più interessi allo Stato italiano, cioè ai cittadini italiani, per il famoso prestito di 300 milioni ricevuti per consentire a CAI di decollare. Oltre a ciò, CAI si accolla i debiti all'Italia fino al miliardo in cifra tonda del contratto, debiti che CAI pagherà dopo aver negoziato con i fornitori, quindi con valori e tempi incerti. Non sarebbe stato più accettabile regalare all'Italia ad Air France in cambio del mantenimento di tutti o quasi tutti i posti di lavoro? Questo è quanto avviene nell'ambito privato quando si vogliono cedere rami di azienda, ma non si vogliono avere contraccolpi di tipo sociale. Inoltre, non pensa che l'attuale contratto esponga troppo il commissario Fantozzi dal punto di vista amministrativo penale? Domenico, Roma. I giudici hanno emesso la sentenza su Eluana in nome del popolo italiano. Cioè, anche a nome mio? Ma come si fa a prendere le distanze? Che strumenti ho per dissociarmi da questa sentenza di morte della quale non voglio sentirmi responsabile? Nemmeno per un 60 milionesimo. È un peso troppo grande per poter essere sostenuto da una persona normale. Che fine ha fatto il giuramento di Ippocrate? Mia madre ha 90 anni. E da 7 mesi è in una situazione simile a quella di Eluana. In coma per effetto di una caduta e certamente senza una prospettiva di guarigione, né a breve né a lungo tempo, per quanto lunga si possa immaginare la speranza di vita di una persona di 90 anni in tali condizioni. Cosa dovrei o potrei fare, quindi? Smettere di alimentarla? Io dovrei togliere la vita a lei, che me l'ha data. Cosa può produrre questo stato confusionale delle coscienze, che fa apparire giusto un gesto che la coscienza percepisce contro natura? Piuttosto, mi pare che questa sua condizione costringa noi figli e suo marito, certamente non più giovane e con gravi acciacchi lui stesso, a meditare sul significato della sofferenza, della vita e della morte, e a considerare la grandezza e gratuità dell'amore di cui ha investito tutti noi. Al confronto di tutto questo, cosa rappresenta il disagio che questa sua infermità ci procura? Restituiamo in minima parte quanto gratuitamente abbiamo ricevuto. Donato. Come nel caso di Parma, anche a Genova non è importante sapere chi ha dato le manganellate. Quel che davvero importa è determinare la presunta indipendenza degli agenti semplici che hanno agito senza, così pare, il consenso dei superiori. In un organo come quello della Polizia di Stato, paradossalmente, non andrebbe mai giudicato il comportamento di un agente semplice, ma sempre e solo quello dei dirigenti. Non dimentichiamo che parte del lavoro della Polizia di Stato è proprio quella di dare manganellate. Gli agenti vengono istruiti e i contribuenti spendono diversi milioni di euro per addestrare e attrezzare la polizia con mezzi e strutture atte al pestaggio dei cittadini, quando questi sono presumibilmente colpevoli di qualche reato. Quindi il singolo agente è chiamato ad eseguire ciecamente gli ordini dei superiori e se questo non dovesse avvenire, implicitamente si ammette che la struttura della Polizia di Stato è fondata sull'anarchia, dove un singolo agente è capace di compromettere l'intero corpo. Quindi, o gli agenti sono stati illegittimati nel loro comportamento, o i dirigenti non sono stati in grado di gestirli. In entrambi i casi, la responsabilità ricade sui dirigenti e non sugli agenti. Emiliano. Un po' di tempo fa, i centri sociali di Milano avevano tappezzato la città di manifesti con scritto «Ma noi resistiamo» o qualcosa del genere. Nessuno sa a chi o cosa dovessero resistere. Comunque in realtà è la gente che inizia a resistere a loro, come al quartiere Isola di Milano, dove qualcuno ha avuto l'ardire di taroccare uno dei loro sacri graffiti. Ma riassumiamo la storia. Il quartiere Isola è uno di quelli dove più si nota la presenza dei centri sociali. Infatti fa venire il vomito solo a passarci. Tutto imbrattato di graffiti e scritte di ogni genere e specie. Tanto per aggiungere porcheria a porcheria, un paio di mesi fa il centro asociale di Via della Pergola aveva indetto una manifestazione per decorare il muro del palazzo occupato. Così una domenica all'isola abbiamo avuto un bel happening di cerebrolesi, tutti riuniti per l'occasione. C'era quello che disegna delle facce da mostro, quello che fa pupazzi senza denti, quello che dipinge ovunque un faccione da bambino meticcio senza naso. Ci mancava solo il pao pao che fa i pinguini sui paracarri e il bros che fa il cibo per gli occhi. E poi la neurodeliri sarebbe stata al completo. Però qualcuno, nottetempo o al mattino, mentre questi dormivano per smaltire le canne, si è divertito alle loro spalle. È apparso un naso rosso sul faccione del bambinastro meticcio. Oibò, i centri asociali e i grandi artisti da strada dissacrati. Neanche fossero Berlusconi. Quale impudenza! Forse una cosa da poco. Ma finora nessuno aveva mai osato tanto. Farsi beffe della marmaglia, correndo il rischio di essere beccato e malmenato dai padroni del quartiere. Chissà, magari adesso andranno anche loro alla polizia a fare denuncia contro gli imbrattatori dei loro imbrattamenti. Associazione Anziani Isola. In un programma televisivo ho visto il giornalista Stella, autore con Sergio Rizzo del bestseller La Casta, e l'onorevole Castelli rinfacciarsi l'un l'altro di percepire uno stipendio esagerato. È apparso evidente, e d'altronde già si sapeva, che entrambi appartengono a categorie privilegiate, ma con la differenza che i politici sono pagati dai cittadini e in misura stabilita dagli stessi politici. Io a questo aggiungerei che la politica non dovrebbe essere professione, ma servizio. Si dovrebbe vivere per la politica e non di politica. Ho colto un certo imbarazzo negli ospiti della trasmissione quando sono stati resi pubblici i loro stipendi, per poi rimpallarsi l'accusa di essere dei comunisti ed egualitaristi. È arduo stabilire in assoluto quanto sia giusto che uno guadagni. L'ideale sarebbe che a ognuno venisse data la possibilità di vivere una vita dignitosa, che fosse retribuito in funzione di quanto dà rispetto alle sue capacità e infine considerando il suo contributo concreto alla collettività, che di per sé dovrebbe essere già autogratificante. Comunque la si pensi, è un dato incontrovertibile che a fronte di tanti poveri ci sono diversi nostri concittadini che percepiscono uno stipendio che sarebbe sufficiente a far campare bene anche 8 famiglie. E questo dovrebbe bastare a scuotere le coscienze di chiunque, cattolico o laico, liberale o democratico che sia, senza bisogno di scomodare Karl Marx. Gaspare, Napoli. Cara Radio 24, Epifani invita il ministro Brunetta a produrre le prove sui cosiddetti fannulloni nella pubblica amministrazione, altrimenti è un bugiardo. Vorrei dire ad Epifani e a tutti coloro che sposano questa tesi che i fannulloni si possono trovare sempre, ogni qualvolta si ha bisogno della pubblica amministrazione. Ma i filmati visti e rivisti su dipendenti che timbrano ed escono a fare la spesa, dipendenti che sono sempre fuori stanza, li ha presente Epifani? Indro Montanelli, in tempi non sospetti, così si esprimeva sugli impiegati della pubblica amministrazione. Pochissimi lavorano tantissimo, molti lavorano molto poco, tantissimi non fanno nulla. E infine riporto la mia esperienza personale. Anni fa mi chiamarono da Roma per un incontro. All'alba presi l'aereo per essere puntuale e alle 9:30 ero già negli uffici di Roma. Chi mi aveva convocato non c'era, eppure avevo capito bene. Incontriamoci domani alle 9:30. Boh, mi convinsi che forse aveva trovato traffico. Aspettai sino alle 10, poi timidamente bussai all'uscio di altre stanze contigue per sapere se il loro collega, quello della stanza accanto, avesse avvisato lasciato detto a qualcuno di un contrattempo o altro. Nessuno sapeva nulla. Anzi, erano anche scocciati che li avessi disturbati. Nell'attesa mi presi un caffè, mi feci indicare dove fosse la macchinetta e alla fine di un lungo corridoio vi era un bel gruppettone di persone che se la raccontavano in attesa del loro turno. Arrivò il mio turno, presi il caffè e tornai lemme lemme a presidiare l'ingresso della stanza del mio potenziale interlocutore. Tutto taceva. Feci qualche telefonata a casa per sapere se qualcuno da Roma avesse avvisato di un contrattempo o altro. Nulla di nulla. Una giornata persa, senza contare i costi sostenuti del volo, del parcheggio in aeroporto, eccetera. Che fare? Tornare a casa? Ripercorsi il corridoio e passai davanti alle macchinette del caffè. E chi rividi? Le stesse persone di prima, ancora lì in amabile conversazione. Questi sono fatti. Che nella pubblica amministrazione vi siano persone corrette, che lavorano e sgobbano, è sacrosanto, ma quelle stesse persone sono le prime che ammettono la presenza di moltissimi pelandroni. Affermare l'opposto è controproducente, perché la gente onesta ha queste condizioni. Nell'opera del sindacato non ci si riconosce più. Ma è mai possibile che il sindacato debba sempre prendere le difese dei lavativi? Anche nelle aziende private vi sono gli scansafatiche, ma almeno non pesano sulla collettività. Qui sta la differenza. Piero, Milano. Buongiorno, direttore. Sono una giovane imprenditrice di 30 anni e da quando nel 2000 ho iniziato la mia piccola avventura imprenditoriale, ho trovato nella vostra radio una piacevole fonte di informazione. Quando abbiamo iniziato, eravamo solo io, il mio socio e un dipendente. Avevamo tanta voglia di lavorare e tanta fiducia che la politica potesse aiutare le persone come noi, che scommettevamo i nostri risparmi e tutte le nostre energie in una piccola attività imprenditoriale. Negli anni la nostra piccola falegnameria ha avuto un discreto successo e ora abbiamo 4 dipendenti. Fortunatamente i nostri conti sono abbastanza stabili. Non le nascondo però che dopo qualche anno siamo rimasti veramente delusi da tutta la classe politica che da destra a sinistra prima ci ha massacrato con gli studi di settore, c'era il governo di destra, poi ci ha etichettati come evasori fiscali a prescindere, c'era il governo di sinistra. Noi andiamo avanti. Ma siamo veramente delusi e stanchi di orari pesantissimi, rinunce familiari. Io ho dovuto rinunciare a tutta la mia maternità perché non potevo certo permettermi un'impiegata che prendesse il mio posto sia in termini di stipendio che poi come studi di settore. E sacrifici finanziari. Abbiamo fatto un mutuo per pagare le tasse. Monica. Cara Monica, vorrei solo ringraziarla, non solo per la sua lettera, ma anche per la sua esperienza e la sua volontà. Questo perché, al di là delle più che comprensibili lamentele, tra le righe si legge una grande passione imprenditoriale. È quello di cui il nostro paese ha bisogno e fortunatamente finora ha trovato in grande quantità. Sarebbe necessario, certo, che la politica, tutta la politica, avesse più attenzione per le piccole e medie imprese. Più attenzione, perché troppo spesso sono considerate mucche da mungere e non le vere protagoniste della crescita italiana. Ma nonostante questo, mi sento di ripetere coraggio, Monica. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.